donna di lei, ritengomi a Dio, ritengomi a Dio, tradì l'amor mio, tradì l'amor mio. Con lacrime vene l'alma in tempesta, il folgore un frange dell'alma funesta, la vena di cielo era vestita, la vena di cielo inodi. Leggi tempora divina, gli eventi in un poco di fumi, la rabbia dei venti, la morte, l'amore, quegli armi dal mare. Oh, oh, oh, oh, la morte, le armi dal mare, la morte, le armi dal mare. Nell'anime nostre non entra terrore.